Dunque, ultimo stacco di questo programma e dobbiamo salutare tutti quelli che ci hanno seguito, Maria Quinta, Umile, dalla Germania, i tuoi parenti, penso. Saluta di massa. I miei parenti della Ad una tomba, Basilicata, dalla sì. Sicilia, Dalla Puglia, no. Dalla Puglia c'è una. A dalla Puglia, sì, Taranto, potrebbe. non so. Parenti Provincia di del. Taranto, Ah, sì, come lo sai, mi parenti del segui? Hai commissario, preso sì. informazioni su di me? Sì, ti verrò ad ammazzare proprio. Cosenza, tutta la Calabria, E tutti. bisogna come sempre salutare tutti quelli che ci hanno seguito perché sei Umile cuore De di riposo Marco. degli. No, l'ho salutato Umile De Marco, sempre da Mogliano, che ha Umile De incominciato il Marco. suo campionato. Sì, va bene, quando viene Ciao Umile. Umile. Ciao Umile, sì. Ecco, dobbiamo Non l'abbiamo proprio sempre fare calcolato le questa sera, marchette. dai. Ma non abbiamo calcolato una persona in particolare. Vediamo se ti viene in mente. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Vu. Dito. Ecco. Dito Mancini, T'ammazza quando buonasera. rientri a Penso casa. proprio di sì. Ti aspetta Verrò con. eliminata. Mi Sì, aspetta con davanti una con canna di mitra, cannizzo ti prende stile proprio. sicario. Sì, con la terra che stanno smuovendo dalle tue parti, ti sotterrerà proprio. Poi arriva Non Candyman voglio e parlarne. faranno feste. Dobbiamo sempre salutarti a quelli che ci hanno seguito, le case cure di riposo, agli ospedali, gli ammalati, le persone sole. E nei carceri ci scrivono sempre più numerosi e ci dicono: perché voi fate il programma e noi siamo in carcere? Ma altronde, ci vedremo presto. Questa è la promessa che dice il nostro regista Pietro Rilanci, che Purtroppo anche non so se come. arriverà integro al matrimonio che si svolgerà ad agosto e di cui Web Radio Luzzi ne trasmetterà in esclusiva i lavori, a cominciare dalla promessa che poi farà lui al ristorante Il Tartufo. Penso, mi auguro, ci saranno le telecamere di Real TV, no? Una Ci sarà tarandella! anche turista turista. E ci sarà anche Pino Gigliotti. Inviterai Pino Gigliotti, mi auguro. Saranno quattro persone, no? Ci paga a pizza Pier Francesco, no? Ti pare? Squid, ci dai. Sì, Pier Francesco, sì, è proprio tutto il cabaret. Invece, Squid con 100 grammi di grana padano, ce la fai. Ti risparmi un coperto, diciamo. Andiamo in conclusione a dire due ciutiate su Futurama, una serie che non mi piace. Lo dico I Simpson del francamente. futuro, perché non ti Perché è piace? molto, non casareccio, però molto scacato, si può Va dire, bene, abbastanza, scacato. comunque parla di questo Personaggio ragazzo del. odioso, no, il primo personaggio odioso è il robot, Bender, Bender, che fantastico, che è un odioso. robot alcolizzato, ancora Oltre, torniamo sì, che sempre, si deve i problemi dell'alcolismo alcolizzare, li perché troviamo in altrimenti tutti. poi gli viene la barba se non si alcolizza, è il caso al contrario. C'è questo qua che Philip J. Fry, Che no, è ragazzo il protagonista di questa che viene storia catapultato dal nel futuro per 1999 errore. al 3000, il fattorino delle pizze che gli avevano mandato il biglietto ti hanno fregato ed è rimasto fregato veramente. Si è ritrovato dopo 1000 anni e si innamora di questa Turanga Leila, la mutante con un occhio solo, la Gianni De Marzio del 3000, si può dire fisco da bonanza, anche se si metteva sempre la solita canotta. Fisco da Le dava un certo bonanza. Sì, fascino, però, aveva una dai. bella sesta. Se la inghiappettò il capitano Zapp Brannigan, quello che aveva come suo vice una lucertola. Pensa tu. E un saluto va anche alla lucertola, Ciao Nando, che Lucertola, che tra mi l'altro segue poi si dalla Germania, fidanzerà con la capisci? migliore amica di Sì, con la Lela. cinese, quell'altro odioso. Ma bisogna dire che vi sono i due personaggi chiave di questa serie, secondo me. Il professore Decrepito, nipote di Philip J. Fry, nonostante abbia 165 anni ed Si era. ritrova ad avere uno zio più giovane Sì, di si lui. ritrova ad avere un zio più giovane, più cretino di lui, e soprattutto il mio mito. Bubuo! Dottor Zoidberg! La discarico, Medico ma. chirurgo. Medico chirurgo, no? Che si mette i sandalucci, no? Che da buon gambero aveva anche le sue tecniche di sensualità e non se lo voleva filare nessuno. Veramente io vorrei essere curato Durante il da periodo di questo medico. accoppiamento, Sì, ricordi quella ricordo quella puntata, puntata? si mise in spiaggia e fece cra cra! Mamma mia, Buttava quel bellissimo. liquido odioso, ma no. Sì, anche perché lui quando vomita perle. Che è una cosa utile, no? Chissà se Fa c'è la sempre rivoluzione. comodo. Dovremmo farcela È certo, sì. un dottor Zoidberg. Va, c'è Morticchio, quello che Mordicchio, caca il piombo che viene praticamente. trovato su un altro Una sua pianeta da cacchina Lela. pesa 70 kg. Vabbè, Zapp Brannigan, il capitano, eccetera, eccetera. E poi la Planet Express, questa ditta di import-export assurda che va nei migliori pianeti del mondo, no? Ricordo che una volta Philip J. Fry che doveva catturare il gambero ventoso, un gambero Un ventoso che è SDA. una cosa assurda. Sì, è una SDA che diventa un SPA, salutami pure a puntini puntini. Quando diventerà SPA diventa salutami pure a sorta. Nel caso, dunque, diciamo che questa puntata è andata così all'acqua di rose, perché chiaramente Simpson, Griffin, Futurama meriterebbero varie e varie puntate, N puntate. Come si dice in termine storico, anche perché nella prossima puntata, dove tu starai in panchina perché hai altri impegni, si parla delle fiction italiane andate in malora. Quindi, E racconteremo un episodio particolare di una fiction italiana che copia in una scena spudoratamente Il Padrino. Il nostro regista ce la dici la questa sera? No, ve la dico nella prossima puntata, che no. Soffesso che me la sparo stasera sta cosa, no. Ma noi, penso anche di battere un record al microfono. Chissà se riesco a fare 12-13 minuti di parlato filato. Un record di 15 minuti. Chissà se riesco a batterlo, guarda. Chissà se riesco a batterlo. Se riesco a battere Rosaria Caruso, che ha fatto questo record, nel caso in cui lo batto avrò il calcio cavallo d'oro sponsorizzato, ricordiamoci, dal caseificio Roberti sulla schiena. Sì, me lo spacco in fronte praticamente, un calcio cavallo del 1991. Il giorno in cui il Cesena retrocedette dall'A alla B, ma ne faremo penso un altro, dato anche la stagione che si prospetta in quel dell'Emilia Romagna. Dunque, io direi che abbiamo finito la puntata. Chiediamo, grazie qui. Alessia, sempre per le tue perle di saggezza, come quelle del dottor Zoiber. Ecco, ringrazio il nostro pugile. In questo caso, che ci ha fatto anche la guardia del corpo e che ci ucciderà in macchina. Penso proprio di sì. Perché gli abbiamo fatto fare tardi. Ringrazio il nostro regista, il regista di riserva, tutti quelli che ci hanno seguito, come sempre, che assicurano di riposo agli ospedali. E dunque, a venerdì prossimo. E cosa dire? Buonanotte. Buonanotte. E mandiamo un Drois. Che dice il regista? Ma sì, mandiamo un regista. Lui annuisce sempre. Dunque, una buonanotte e un buon Drois. Buonanotte.